Se gli agrari hanno aperto la borsa e i soldi ai fascisti hanno dato, è per difendere quel che hanno sempre rubato, per difendere la loro proprietà. Han deciso di usare il terrore, han deciso di usare i fascisti, perché vorrebbero piegare i comunisti e vorrebbero piegare i lavoratori. Per uccidere il nostro coraggio, per spezzare la falce e il martello, hanno ridato ai fascisti il manganello, quello stesso di 50 anni fa. E per questo Colombo è restivo, i fascisti li lasciano fare, perché è così che dovrebbero fermare l'avanzata di tutti i lavoratori. Ma la storia l'abbiamo imparata, nelle piazze, in galera, al confino. Ora siamo forti, non siamo nel 21, questa volta il fascismo non passerà. Ora siamo forti, non siamo nel 21, questa volta il fascismo non passerà.